Vengo, Signore, la mia vita offrire a te come offerta di amor e sacrificio. Voglio la mia vita a te regalar come offerta viva sul tuo altar. Vengo, Signor, la mia vita offrire a te come offerta di amor e sacrificio. Voglio la mia vita a te regalar come offerta viva sul tuo altar. E per adorare te hai creato me. C'è nel cuore tuo e che ogni giorno io voglia sempre più stare al tuo fianco, stare al tuo fianco, Signore. Signor, la mia vita offrire a te come offerta di amor e sacrificio. Voglio la mia vita a te regalar come offerta viva sul tuo altar. Oh.